Ad alta voce, Marco Foschi legge Doppio sogno di Arthur Schnitzler, traduzione di Giuseppe Farese. «Allora te la passi bene», disse Fridolin sorridendo, come per tranquillizzarsi. «Non mi posso lamentare», rispose Nachtigall. E posando la mano sul braccio di Fridolin, «ma ora dimmi, com'è che vieni qui in piena notte?» Fridolin giustificò la sua presenza nel locale a un'ora così tarda, col bisogno impellente di bere ancora un caffè dopo una visita notturna a un malato. Nascose però, senza saper bene perché, che non aveva più trovato in vita il suo paziente. Poi parlò in generale della sua attività di medico presso il policlinico e del suo studio privato. Raccontò di essere sposato, felicemente sposato, e padre di una bambina di 6 anni. Nachtigall raccontò a sua volta. Come Fridolin aveva giustamente supposto, in tutti quegli anni si era guadagnato da vivere suonando il piano in ogni specie di cittadine polacche, rumene, serbe, bulgare. A Lemberg viveva una donna dalla quale aveva avuto 4 bambini. Scoppiò a ridere, come se fosse assai buffo avere 4 bambini, tutti a Lemberg e tutti dalla stessa donna. Dall'autunno scorso abitava di nuovo a Vienna. Il teatro di varietà che l'aveva ingaggiato era subito fallito e ora suonava, come capitava, nei locali più diversi, talvolta anche in 2 o 3 nella stessa notte, come ad esempio nello scantinato di quel caffè. «Niente di molto signorile», osservò. «In realtà una specie di locale per il gioco dei birilli, quanto al pubblico, poi. Ma quando si deve provvedere al sostentamento di 4 bambini e di una donna, Lemberg», e rise di nuovo, non più così allegramente come proprio prima. «Talvolta lavoro anche per privati», aggiunse subito. E poiché colse sul volto di Fridolin un sorriso che alludeva a un ricordo, non per direttori di banca o roba del genere, no. In tutti gli ambienti possibili, anche importanti, pubblici e segreti. «Segreti?» Nachtigall assunse un'espressione scaltramente seria. «Fra poco mi verranno a prendere di nuovo». «Come? Oggi suoni ancora?» «Certo. Lì si comincia solo alle 2. «Abitudine particolarmente raffinata», disse Fridolin. «Sì e no», rispose ridendo Nachtigall, ma si fece subito di nuovo serio. «Sì e no?» ripeté Fridolin incuriosito. Nachtigall gli si avvicinò. «Oggi sono in una casa privata, ma non so chi è il proprietario». «Allora oggi è la prima volta?» chiese Fridolin con crescente interesse. «No, la terza. Ma probabilmente sarà di nuovo in una casa diversa. Non capisco, neppure io», rise Nachtigall. «È meglio che tu non faccia domande». «Ah», fece Fridolin. «No, ti sbagli. Non si tratta di quel che pensi. Ne ho già viste di tutti i colori, non lo si crederebbe in certe cittadine, specialmente in Romania si fanno molte esperienze, ma qui...» Scostò un po' con la tendina gialla dalla finestra, guardò in strada e disse come tra sé: «Non è ancora arrivata». Poi precisò a Fridolin: «Intendo la carrozza. Mi viene sempre a prendere una carrozza. È sempre una diversa». «Mi incuriosisci, Nachtigall», disse freddamente Fridolin. «Senti», disse Nachtigall dopo qualche esitazione, «se c'è uno a cui lo permetterei, ma come si fa?» E improvvisamente: «Hai coraggio?» «Strana domanda», rispose Fridolin in tono puerilmente offeso. «Dico così per dire. Ma allora che intendi dire veramente? Perché in questa occasione c'è bisogno di un particolare coraggio? Cosa può mai accadere?» disse Fridolin con una risatina sprezzante. «A me non può accadere nulla. Tutt'al più oggi sarà l'ultima volta che suono per quella gente. Ma forse andrà comunque così. tacque e guardò di nuovo fuori, scostando la tendina. «Beh, allora?» «Gigi», domandò McGonagall come trasognato. «Continua il racconto dal momento che hai cominciato. Riunione segreta, circolo esclusivo, invito obbligatorio, non so. Recentemente c'erano 30 persone. La prima volta, solo 16. Una festa da ballo, naturalmente. Una festa da ballo. Ora McGonagall sembrò pentirsi di aver parlato. E tu suoni per l'occasione. Per quale occasione? Non so di chi si tratti. Davvero, non lo so. Io suono con gli occhi bendati. McGonagall, che storie mi racconti mai? McGonagall sospirò. Bendati, ma purtroppo non del tutto. Non così che non possa vedere proprio nulla. Infatti, guardo nello specchio attraverso il fazzoletto di seta nera che mi ricopre gli occhi. Tacque di nuovo. In breve, disse Fridolin impaziente e con disprezzo, si sentiva però stranamente eccitato, donnine nude. Non dire donnine, Fridolin, rispose McGonagall come offeso. Femmine simili. Non ne hai mai viste. Fridolin si schiarì leggermente la voce. E quanto costa l'entrata? Domandò di sfuggita. Vuoi dire il biglietto d'ingresso o roba del genere? Che ti salta in mente? E allora come si fa ad entrare? Chiese Fridolin a bassa voce, tamburellando con le dita sul tavolo. Devi conoscere la parola d'ordine. E ogni volta ce n'è una diversa. E quella di oggi? Non la conosco ancora. Me la dice il cocchiere. Fammi venire con te. McGonagall. No, impossibile. Troppo pericoloso. Ma se un minuto fa avevi l'intenzione di permettermi... Dovrà pure essere possibile. McGonagall lo osservò attentamente. Vestito come sei ora, non potresti in nessun caso. Sono tutti mascherati, uomini e donne. Ce l'hai un costume o roba del genere? Ma no, è impossibile. Forse la prossima volta. Mi inventerò qualche trucco. Tese l'orecchio, guardò di nuovo in strada attraverso la tendina, tirando un sospiro. Ecco la carrozza. Adieu. Fridolin lo trattenne per il braccio. Non mi sfuggirai tanto facilmente. Devi portarmi in con te. Ma collega, lascia che pensi io a tutto. So bene che è pericoloso. Forse è proprio per questo che mi attira. Ma ti ho già detto, senza costume e maschera, ci sono ditte che noleggiano costumi. All'una del mattino, ascolta, McGonagall. All'angolo della Wickenburgstrasse c'è un negozio del genere. Ogni giorno ci passo davanti diverse volte. E aggiunse frettolosamente e con crescente eccitazione, fermati qui ancora un quarto d'ora, McGonagall, e nel frattempo tenterò la sorte. Il proprietario della ditta abita probabilmente nello stesso edificio. Se non dovesse essere così, allora rinuncio al mio proposito. Deciderà il destino. Nel medesimo palazzo c'è un caffè, mi pare che si chiami Caffè Vindobona. Dici al cocchiere di aver dimenticato qualcosa in quel caffè. Entri, io aspetto vicino alla porta. Mi riveli in fretta la parola d'ordine. Risali nella tua carrozza e quanto a me, se mi sarà riuscito di procurarmi un costume, prendo subito un'altra carrozza e ti seguo. Il resto si vedrà. Ti do la mia parola, McGonagall, che dividerò in ogni caso il rischio con te. McGonagall aveva tentato a più riprese di interrompere l'amico, ma non ci riuscì. Fridolin pagò il conto, diede una mancia fin troppo lauta, come gli sembrò s'addicesse allo stile di quella notte, e uscì. Fuori era ferma una carrozza chiusa, a cassetta, immobile, un cocchiere vestito tutto di nero, con un alto cilindro. Sembra una carrozza funebre, pensò Fridolin. Pochi minuti dopo giungeva a passo veloce alla casa d'angolo che cercava. Suonò. Si informò dal portiere se Ghibiser, il mascheraio, abitava nel palazzo e sperò in segreto che non fosse così, ma Ghibiser abitava proprio là, al piano sotto il magazzino dei costumi. Il portiere non sembrò neppure particolarmente sorpreso di quella visita a ora tarda, anzi, reso affabile dalla mancia di Fridolin, osservò che durante il carnevale non capitava poi così di rado che qualcuno venisse a noleggiare costumi anche a quell'ora di notte. Fece luce con la candela dal basso finché Fridolin ebbe suonato al primo piano. Venne ad aprire proprio il signor Gibiser, quasi avesse atteso dietro la porta. Magro, senza barba, calvo, con una vestaglia a fiori fuori moda e un berretto alla turca con nappa, sembrava un ridicolo vecchio da commedia. Fridolin chiese ciò che desiderava e aggiunse che non badava affatto al prezzo, ma Gibiser obiettò quasi sprezzante: «Non pretendo mai più di quanto mi spetti». Condusse Fridolin nel magazzino per una scala a chiocciola. C'era un odore di seta, velluto, profumi, polvere e fiori secchi. L'incerta oscurità era rotta da un baluginio rosso e argento. Improvvisamente innumerevoli piccole lampadine brillarono fra gli armadi aperti di un corridoio lungo e stretto che si perdeva nelle tenebre. A destra e a sinistra pendevano costumi di ogni genere. Da una parte cavalieri, scudieri, contadini, cacciatori, dotti, orientali, buffoni, dall'altra dame di corte, castellane, contadine, cameriste, regine della notte. Sopra i costumi si vedevano i corrispondenti copricapo. Fridolin aveva l'impressione di passare fra due ali di impeccati pronti a invitarsi a ballare. Gibiser lo seguiva. Il signore desidera qualcosa di particolare. Louis XIV, Directoire, antico tedesco. Ho bisogno di un saio scuro e di una mascherina nera, nient'altro. In quel momento, dal fondo del corridoio, si sentì un tintinnio di vetro. Fridolin fissò spaventato il mascheraio come se questi fosse obbligato a un chiarimento immediato, ma Gibiser rimase impassibile. Cercò a tastoni un interruttore nascosto da qualche parte e un chiarore abbacinante si riversò subito in fondo al corridoio, illuminando un piccolo tavolo apparecchiato con piatti, bicchieri e bottiglie. Da due sedie a destra e a sinistra si alzarono due giudici della Sacra Veme in abito talare rosso, mentre nello stesso istante scompariva una graziosa creatura tutta bianca. Gibiser si precipitò a grandi passi in quella direzione. Allungò la mano sopra il tavolo e afferrò una parrucca bianca. Contemporaneamente sbucò da sotto il tavolo una ragazza graziosa e giovanissima, quasi una bambina, in costume da Pierrette, con calze di seta bianche. Attraversò correndo il corridoio e raggiunse Fridolin, che fu costretto a prenderla fra le braccia. Gibiser aveva lasciato cadere sul tavolo la parrucca e tratteneva a destra e a sinistra per le toghe i giudici della Veme. Allo stesso tempo esclamò, rivolto a Fridolin: «Signore, mi tenga ferma dalla ragazza». La piccola si stringeva a Fridolin come a chiedere protezione. Sul suo visino magro, bianco, incipriato, spiccavano i finti nei. Dal seno delicato saliva un profumo di rose e di cipria. I suoi occhi sorridevano di furberia e di piacere. «Lor signori rimarranno qui finché non li avrò consegnati alla polizia», esclamò Gibiser. «Che le salta in mente?» dissero i due, e a una voce: «Abbiamo aderito a un invito della signorina». Gibiser li mollò e Fridolin sentì che diceva loro: «Esigo comunque un chiarimento, o non si sono subito accorti di avere a che fare con una pazza». E rivolto a Fridolin: «Scusi l'incidente, signore». «Ah, no, non importa», disse Fridolin. Avrebbe preferito restare lì o portar via con sé la piccola in qualsiasi luogo e a prezzo di qualsiasi conseguenza. La ragazza lo guardava con occhi seducenti e infantili, come ammaliata. I giudici della Veme parlavano animatamente tra loro in fondo al corridoio. Gibiser si rivolse con fare serio a Fridolin e chiese: «Desidera dunque una tonaca, signore, un cappello da pellegrino, una mascherina?» «No», disse la Pierrette con occhi raggianti, «al signore devi dare un mantello di ermellino e un farsetto di seta rossa». «Tu non muoverti di qui», interrompe Gibiser. E tirò fuori una tonaca scura, appesa fra un lanzichenecco e un senatore veneziano. «Questa è la sua misura, ed ecco il cappello adatto. Tenga, presto». Ora si fecero sentire di nuovo i giudici della Veme. «Ci faccia uscire immediatamente, signor Chibiser». Con sorpresa di Fridolin, essi pronunciarono il nome Ghiviser alla francese. «Neanche per idea», rispose Beffardo il mascheraio. «Per il momento avranno la cortesia di attendere qui il mio ritorno». Nel frattempo, Fridolin si infilò la tonaca. Annodò le due estremità del cordone bianco penzolante. Ghiviser, in piedi su una piccola scala, gli diede il cappello nero a larghe tese da pellegrino, e Fridolin se lo mise in testa. Ma compiva tutte quelle azioni come fosse costretto, perché sentiva con sempre maggiore forza che era suo dovere restare là e aiutare la Pierrette minacciata da qualche pericolo. La mascherina che Ghiviser gli diede e che si provò subito emanava un profumo strano, un po' ripugnante. «Precedimi», disse Ghiviser alla piccola, e indicò imperiosamente la scala. Pierrette si voltò, gettò uno sguardo in fondo al corridoio e si congedò, accennando un saluto gaio, ma velato di malinconia. Fridolin seguì il suo sguardo. Ora non c'erano più i giudici della Veme, ma due giovani snelli in fracca e cravatta bianca, che tuttavia avevano ancora le mascherine rosse sul viso. Pierrette scese agilmente la scala a chiocciola, dopo di lei Ghiviser, infine Fridolin. Nell'anticamera Ghiviser aprì una porta che conduceva alle stanze interne e disse a Pierrette: «Per ora vai a letto, creatura abietta. Ci vedremo non appena avrò fatto i conti con quei signori di sopra». Bianca e delicata era ferma sulla porta. Lanciò un'occhiata a Fridolin e scosse tristemente la testa. In un grande specchio a muro sulla destra, Fridolin vide un pellegrino magro che non era altri che lui, e si meravigliò che tutto procedesse così naturalmente. Pierrette era scomparsa. Il vecchio mascheraio aveva chiuso la porta alle sue spalle, poi aprì quella dell'appartamento e costrinse Fridolin a uscire sul pianerottolo. «Mi scusi», disse Fridolin, «quanto le devo?» «Lasci pure, signore, mi pagherà la riconsegna, mi fido di lei». Ma Fridolin non si mosse. «Giuri che non farà nulla di male a quella povera ragazza». «Che gliene importa, signore?» «Poco fa ho sentito che definiva pazza la piccola, e adesso l'ha chiamata creatura abietta. Una sorprendente contraddizione, non può negarlo». «Ebbene, signore», replicò Ghiviser con tono teatrale, «non è forse il pazzo un abietto dinanzi a Dio?» Fridolin rabbrividì disgustato. «Comunque sia», osservò poi, «si troverà un rimedio. Sono un medico. Domani riparleremo della cosa». Ghiviser rise beffardo e in silenzio. Sul pianerottolo si accese improvvisamente la luce. La porta fra Ghiviser e Fridolin si chiuse e fu subito sbarrata. Mentre scendeva le scale, Fridolin si liberò del cappello, della tonaca e della mascherina e prese tutto sotto braccio. Il portiere aprì il portone. La carrozza funebre era ferma di fronte, il cocchiere immobile, a cassetta. Nachtigall si affrettava proprio allora a lasciare il caffè e non sembrò troppo piacevolmente sorpreso di trovare Fridolin puntuale all'appuntamento. «Allora, ti sei veramente procurato un costume?» «Come vedi. E la parola d'ordine?» «Dunque insisti?» «Assolutamente». «Bene. La parola d'ordine è Danimarca». «Sei matto, Nachtigall?» «Perché mai?» Niente. Quest'estate sono stato per caso sulla costa danese. Allora, monta, ma non subito. Dammi il tempo di noleggiare una carrozza qui di fronte». Nachtigall annuì. Si accese con calma una sigaretta. Nel frattempo Fridolin attraversò in fretta la strada, prese un fiacre e, con tono ingenuo, quasi si trattasse di uno scherzo, ordinò al cocchiere di seguire la carrozza funebre che si avviava proprio allora, poco più avanti. Thank you.